il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Siamo nel pieno dell'inverno ed è proprio questa la stagione in cui pensare a progettare il proprio giardino. Piante e fiori da seminare, ma anche magari interventi più complessi. Per parlare di questo abbiamo con noi oggi un esperto, è Riccardo Babolin, progettista del Verde, che oltre a occuparsi di verde pubblico e privato organizza regolarmente corsi di formazione in temi di giardini e di giardinaggio. Vogliamo quindi approfittare dell'occasione per chiedergli qualche consiglio. Intanto grazie Riccardo di averci dato questa disponibilità. Grazie a voi. La prima cosa che mi viene in mente è, parliamo soprattutto di giardini privati più che di verde pubblico oggi, chi ha la fortuna di avere un giardino e magari ce l'ha da sempre uguale e vorrebbe metterci le mani, fare qualche cosa di diverso, qualche intervento per migliorarlo o magari anche modificarlo totalmente, piantare qualche albero nuovo, in questa stagione che cosa deve fare? Allora, innanzitutto grazie a voi dell'invito e parto subito col dirvi che adesso, appunto, essendo nel pieno della stagione invernale, è il momento migliore per programmare tutti quelli che sono i lavori e anche di pianificare le esigenze per il nuovo giardino o per risistemare il giardino che abbiamo. È fondamentale ed importante, come dicevo, pianificare per non incorrere nei soliti errori. Allora, il mese di febbraio è un mese dove abbiamo gli strascichi dell'inverno e perché è un giardino il mese giusto per potare, diciamo, le piante, le rose, le siepi, alcune specie di piante da fiore, diciamo, vanno potate in questo periodo proprio sul finire dell'inverno, ricordando però che ci saranno dei ritorni di freddo. Importante poi in questa stagione farsi aiutare da qualcuno che conosce le piante, perché ad esempio se andiamo a potare adesso una forsythia non avremo più i fiori in quanto fiorisce sui rami dell'anno precedente. Questo è l'errore più comune che riscontriamo, l'errore sulla pianta che viene potata. Poi per quanto riguarda l'intervento in giardino e le piante da piantare, è importante in questo momento, fuori sta piovendo, metterci un po' a tavolino e cominciare a fare uno screening di tutte quelle piante che possono essere diciamo inserite nel nostro giardino, sia per dimensioni che per esigenze in fatto di terreno e in fatto di concimazione. Ecco, un errore, una cosa che magari a volte si vede è che ci sono effettivamente delle piante che sono piccole quando le pianti e poi crescono a dismisura e non ci stanno più negli spazi che gli sono stati assegnati. Possiamo fare un esempio di qualche pianta che potrebbe, di qualche albero di questo genere o anche cespuglio, non lo so, di siepe di questo tipo? Sì, ecco, allora intanto per fare un piccolo esempio pratico, può capitare, è capitato dei nostri clienti che chiedendo una pianta da mettere in giardino gli viene dato paradossalmente una pianta anche un po' estranea alla nostra flora locale, che è il faggio, perché al cliente piaceva la foglia e ha piantato il faggio, pianta che poi è diventata grandissima. Al posto del faggio c'è la parozia persica invece, che è una pianta che ha la foglia che gli assomiglia abbastanza e che è una pianta che raggiunge i 6-7 metri di altezza qua da noi, quindi è una pianta che già di per sé è più gestibile e non ha bisogno di interventi. Qua diventa fondamentale proprio farsi consigliare da persone che non mirano solamente a vendere piante, ma che sanno proprio di cosa stanno parlando, ecco. Ecco, ci sono altre cose che magari si vedono nei giardini, non so, piccoli laghetti, cespugli, siepi, magari anche piante un po' esotiche. E su queste cose qui che cosa potresti consigliare? Se qualcuno, ecco, qualche intervento per rendere più carino, modificare un po' il nostro giardino, che magari sembri diverso, magari facendo una cosa minimale. Sì, allora, interventi che possono cambiare il giardino e renderlo diverso, ce ne sono parecchi. E l'importante, come dicevi tu, l'attenzione nell'inserimento di specie esotiche che poi non sopportano i freddi invernali e quindi vanno ad ammalarsi e morire, piante che hanno bisogno di acqua, di tanta acqua e quindi risorse idriche e manutenzione molto, molto accentuata nei periodi, diciamo, di bel tempo. Ecco, importante ad esempio a piccoli cespugli e a piante che hanno bisogno di pochi interventi. Adesso in questo momento noi stiamo usando anche le graminacee in quanto hanno bisogno di poca acqua e danno effetti che sono molto particolari anche nel periodo invernale, quando il colore, diciamo, va verso i grigi in quanto la pianta si essicca rimettendo poi nuovi germogli a primavera. Da tenere in considerazione anche il fatto della biodiversità, infatti in giardino noi riusciamo se pianifichiamo bene gli interventi, a inserire tutte quelle piante che poi ospitano insetti utili, che da soli faranno, diciamo, un po' di selezione di quelli che sono gli insetti, i patogeni, diciamo, chiamiamoli, quelli che attaccano le nostre piante. Sostanzialmente è una sorta di difesa naturale che noi andiamo a implementare nel giardino. Ecco, infatti un argomento che interessante poteva essere questo. Si parla tanto di biologico oggi, ha senso quando si parla di giardini? Cioè, è possibile avere un giardino, tra virgolette, biologico, quindi invece di ragionare tanto su prodotti, avere magari delle piante che possono integrarsi tra di loro e creare e aiutarsi? Sì, allora noi ragioniamo proprio, ci siamo specializzati nella progettazione e gestione ecologica e biologica delle aree verdi. In che cosa consiste? Consiste proprio nell'inserimento di piante che si aiutano tra di loro nel creare antagonismo verso i patogeni, sia di piante che aiutano lo sviluppo di una entomofauna in particolare, che di per sé fa pulizia. Per esempio la coccinella, sappiamo che ripulisce le piante dagli acidi. Questo diventa molto importante nel caso proprio di voler ridurre l'apporto della chimica in giardino, che in questi tempi, diciamo, è molto utilizzata. Quindi se c'è un giardino con le coccinelle vuol dire che il giardino sta bene. Ma ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare e andare per diverse strade. Con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non son più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre. Mi troverai. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di giardini e stiamo parlando con Riccardo Babolin, esperto e progettista del verde. Abbiamo visto che ci sono piante che hanno senso mettere nel nostro territorio veneto ed altre che forse sarebbe meglio non mettere, piante che stanno bene assieme perché si aiutano a vicenda per la salute del giardino. Un giardino bisogna anche pensare che poi bisogna mantenerlo, quindi quanto tempo serve? Se uno ha poco tempo ma ha un bel giardino, come dovrebbe orientarsi? Quanto tempo serve, bisognerebbe dedicarsi al giardino perché rimanga in ordine? Allora, l'ordine del giardino, chiaramente il senso di ordine è un fattore soggettivo, quindi abbiamo proprio dei clienti che sono ossessionati nel andare in giardino a toccare anche la minima foglia. E diciamo che l'ordine in giardino e il bisogno di manutenzione dipendono molto da che cosa noi inseriamo. Mi viene in mente il famoso tappeto all'inglese, che se lo voglio mantenere tale deve essere rasato una volta a settimana e quindi richiede un grosso, diciamo, apporto energetico da parte sì di forza lavoro e anche di mezzi operativi. Altresì, se io mi accontento di un tappeto erboso più rustico, posso andarlo a sfalciare, magari scegliendo anche delle essenze più basse, posso andarlo a sfalciare una volta ogni 15-20 giorni per arrivare poi alle famose aiole di prato fiorito, che sono quelle aiole che lasciano vedere l'erba diventare grande, fiorire e rimangono là e vengono tagliate di fatto ogni 2-3 mesi. E mediamente, insomma, ecco, per poi rifiorire, parlando proprio di erba. Ecco, perché anche quando si parla di erba non c'è una sola erba, come ci sono vari fiori, non sarà lo stesso numero di varietà, ma si possono anche scegliere semi diversi quando si va a seminare un prato, ecco, parlando di prati. Esatto, allora si passa dalla selezione di una semente che può dare il famoso green all'inglese di campi da golf, che ha bisogno di continui apporti di concime e anche di continui trattamenti antiparassitari, specialmente fungicidi, e deve essere tagliata anche ogni 3-5 giorni, per arrivare poi a prati più rustici con semi tipo da campo da calcio più rustico a foglia un po' più larga, che viene spalciato mediamente una volta ogni 10-15 giorni, al famoso, chiamiamolo, prato misto basso, dove ci sono anche le famose margherite pratoline e altre piantine, il talassaco e altre piante, quindi è un prato che dal punto di vista estetico può risultare un po' più inquinato, diciamo, per il purista del prato all'inglese, ma è un prato che non ha bisogno di trattamenti, è un prato che io sfalcio tranquillamente ogni 8-10-15 giorni, insomma, ecco. Ecco, oggi si parla sempre di moda, c'è anche nel settore dei giardini, diciamo, dei prati, dei giardini, cioè oggi dove si va? Per esempio c'è una maggior tendenza a piantumare piante autoctone, oppure esotiche, oppure ci sono altre tendenze? Diciamo che per essere adesso abbiamo la fortuna che in questi ultimi anni i paesaggisti, i progettisti di giardini si sono evoluti e hanno praticamente sono conosciuti sul mercato e quindi vengono anche interpellati, quindi l'utilizzo di essenze di piante autoctone prende una parte preponderante, tenendo poi conto che chi si rivolge direttamente al vivaista spesso viene consigliato sulla pianta strana, sulla pianta particolare, insomma, che viene proposta, quindi diciamo che è un 50-50 tra l'esotico e l'autoctono in questo momento. Ecco, citando le piante autoctone, quali potremmo consigliare? Allora, io consiglio sempre piante che non crescano molto, poi in considerazione degli spazi che abbiamo adesso, che non sono grandi, l'acero campestre, il carpino bianco, poi nella varietà Carpino Betulus pyramidalis, che è la varietà fastidiata che cresce meno, diciamo, sono le piante autoctone che io consiglio proprio perché non crescono. Sulle, diciamo, piante che io chiamo vicarianti, in quanto sono da noi da parecchi anni, ma magari hanno origini americane o asiatiche o d'altro, per esempio consiglio il Liquidamba stiracifera pyramidalis, il tulipifera, l'Iliodendro tulipifera pyramidalis, perché hanno questo portamento a sorgente e crescono in verticale, quindi non si allargano, non hanno bisogno di potature, quindi di spese e a livello economico continue nel mantenimento quando sono un po' più, tra virgolette, certo, anziane. Ecco, siccome abbiamo poco tempo, volevo farti un'ultima domanda: esistono dei regolamenti comunali? Perché spesso non ci pensiamo, magari c'è qualche legge che ci dice cosa possiamo piantare e cosa no. Forse ogni comune ha delle regole diverse? Allora, in effetti le regole cambiano un po' da comune a comune, comunque per quel che riguarda l'impianto di nuovi giardini esistono degli elenchi di piante ammesse diciamo nello specifico da ogni comune, e a questi indicativamente ci si dovrebbe tenere per impiantare il giardino, diciamo, e per impiantare le piante. Per la maggior parte chiaramente si fa riferimento logicamente a specie autoctone, in questo caso, in quanto appunto si cerca di privilegiare la flora locale. Ecco, dobbiamo chiudere la trasmissione. Volevo dare magari un indirizzo internet nel quale trovare eventualmente ulteriori informazioni, anche magari per dei corsi di formazione se uno volesse approfondire l'argomento. Puoi dare qualche... Sì, www.areaverde.it, che è www.corsidigiardinaggio.it, che sono i due siti che fanno riferimento ai corsi di giardinaggio e danno anche notizie in genere sul giardino in genere, in sostanza. Benissimo, grazie. Grazie a voi dell'invito, buona giornata. E per rimanere in tema vi diciamo che giovedì 16 e venerdì 17 febbraio si terranno a Treviso, nella Fondazione Benetton Studi e Ricerche, le giornate internazionali di studio sul paesaggio, giunte alla 13ª edizione. Quest'anno al centro dell'attenzione è posta una riflessione sul rapporto tra città, paesaggio e luoghi collettivi, e verranno messi a confronto contributi di natura storica e culturale, ma anche esperienze e progetti alla ricerca di nuove accezioni di spazio comune nella dimensione urbana contemporanea. Ripeto, il giovedì 16 e venerdì 17 febbraio alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, la partecipazione è gratuita, ma fino a esaurimento dei posti disponibili. È richiesto di comunicare la propria adesione sul sito internet www.fbsr.it. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento col quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.